FM. Verde, con delle macchie color ruggine qui e là. E c'erano oggetti di valore nell'auto? Sì, lo stereo delle cassette dei Creedence e c'era anche la mia valigetta. E nella valigetta? Documenti, solo documenti. Solo i miei documenti, documenti di lavoro. Che lavoro fa? Sono disoccupato. Sì, dobbiamo confessarvelo, né io né Roberto Fricantoni abbiamo mai avuto il piacere di andare a letto con Jimmy Page dei Led Zeppelin, ma un po', forse ci sarebbe piaciuto. E forse ci sarebbe piaciuto ancora di più essere in compagnia di Pamela De Barres. Lei ci è stata a letto con Jimmy Page e in un libro che ha pubblicato in questi giorni intitolato Let's Spend the Night Together si permette anche di dare un aggettivo a Jimmy Page, non chitarrista, ma a Jimmy Page amante. Vi chiedevamo quale era l'aggettivo esatto, forse come ipotizzato nella soluzione A, un romanticone? Ebbene, non ci crederete, ma è proprio così. Risposta esatta. Esatto. Io l'avrei pensato. Jimmy Page ha un po' del romanticone. Sì, un po' da bel tenebroso. Esatto. Quindi non era irrefrenabile e non era nemmeno veloce come i suoi assoli. Vi consigliamo ancora Let's Spend the Night Together di Pamela Desbar e soprattutto ricordiamo che a Pane, Burro, Rock and Roll noi stiamo con le groupies. Naturalmente, viva le groupies alle quali vanno tutte le tesse honoris causa che meritano e mi permetto di dire che questo libro di Pamela mi sembra un filo promozionale, spero lo andrò a leggere, lo andrò a consultare perché spero ci siano anche dei flop clamorosi insomma in queste sue notti d'amore. Controlleremo. Infatti voglio sapere anche il negativo, non solo il positivo promozionale per Bacco. Bravo. Vogliamo sapere tutto noi di Pane, Burro e Rock and Roll, basta con i segreti. Say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. The Fesh Mood, 8 e 35 i minuti, le ore segnate dall'orologio di Rock FM. C'è sempre l'Ariele qui in studio. Puntata 139 di Pane, Burro e Rock and Roll. Mercoledì 28 di novembre. Siamo al rush finale. Vedo la redazione con il buon Freak al di là del vetro, pronti a contattare un amico o forse un'amica che negli scorsi giorni si è iscritta al corso, al provino per diventare musicista rock con la bocca, e quindi presumo tra qualche minuto, lo facciamo anche oggi, quindi tra qualche minuto andiamo di musicista rock con la bocca, un'esclusiva di Pane, Burro e Rock and Roll. Ma devo assolutamente fare una strombazzata che mi viene richiesta via SMS per degli operai che stanno lavorando a Piazza dei Miracoli a Pisa e hanno dei problemi con giapponesi che gli sgassano i maroni. Tra l'altro firmano Frick Antoni presidente. Puntavamo prima al Nobel per Frick, però anche presidente ti va bene, sì. Annuisce, dice che potrebbe andargli bene anche quello. In tanti a scrivere al 335 100 77 77, continuate a farlo fino alle 9, mentre io continuo e lancio l'appello a Tino tassista. Mi sa che facciamo un collegamento domani, perché oggi non riusciamo a stare in scaletta, ma sono tantissime le segnalazioni di amici milanesi. È veramente la prima volta che mi capita di gente che segnala la mancanza di luminarie natalizie alla fine di novembre. È incredibile, ragazzi. Ho fatto tutti gli anni, anche nei programmi al pomeriggio qui a Rock FM, ci siamo sempre occupati delle luminarie, ci siamo sempre occupati delle tantissime luminarie natalizie. Quest'anno, ragazzi, c'è chi si lamenta. Io sento puzza di Natale rock, caro Tino. Approfondiremo il discorso domani. C'è anche una segnalazione di Marchino via mail, che lavora in un negozio in Buenos Aires e che dice la sua. Secondo lui, tra le ditte che affittano ai negozianti le luci e il comitato di negozianti non si devono essere messi d'accordo, forse è stato aumentato l'affitto e quindi è per questo che non sono ancora state esposte le luci, o forse, Marchino, a noi piace pensare, perché anche i negozianti di Buenos Aires hanno deciso che questo Natale sarà un Natale rock, quindi con meno luci ma con più impegno, ma con più grinta, un Natale sfrenato, eh? Approfondiremo nel corso delle prossime puntate. Oh! Siamo in discoteca, ok? Accendete la mirror ball, fatela girare, perché ci sono i Kiss di I Was Made For Loving You Baby. Oh yeah! Ho detto che non posso dire che facciamo un calendario? Un mese potrebbero essere i Kiss. Sì, no, ma non posso dirlo, quindi non lo dico. Noi vestiti da Kiss? No, impossibile. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight, I wanna Apriamo la parentesi musicista rock con la bocca. Lei lo è? Ma naturalmente, certo, non solo lo sono, ma vorrei anche esserlo. Ma soprattutto lo sono i nostri numerosissimi radioascoltatori e radioascoltatrici che continuano a iscriversi al provino gratuito per diventare musicisti rock con la bocca. E vorrebbero esserlo. Chi abbiamo oggi in linea? Prima devo avvisare i radioascoltatori che, visto che è una radioascoltatrice romagnola, vorrei che lei, prima di iniziare il provino, ma io sono emiliano, faccia sapere che è imparziale. Certo, mi sono raccomando, è un'unica regione, però sono assolutamente imparziale. Dovremmo avere in linea Roberta. Pronto? Ciao, salve. Brava Roberta! Ciao, ci hai vinto qualcosa? No, sì, no, sì, no, complimenti per l'ottima scelta dalla Romagna. Eccola qui. Insomma. Roberta, facciamo sempre un po' di domande perché sappiamo che siete un po' tesi, quindi vi tranquillizziamo un po'. Possiamo chiederti sì? Quanti anni sei hai? Sei tesa, Roberta? Certamente, tesa? 38. Oh, 38 anni, sei tesa, Roberta? Ma non saprei in realtà. Medio. Felice. Ah, che brava. E senti, che lavoro fai di bello? Dunque, faccio traduzioni quando capita. Oh. E in questo momento sto facendo una cosa molto simpatica. Sono nel bel mezzo della campagna dalle parti di Alfonsine. Ah, sì? Ed è una cosa bellissima, è una giornata di sole, si sta veramente bene. Quindi maestro, Roberta è una poliglotta. Ma è una linguista, bravissima. Sì, oui. Bravissima, bravissima. Vero in molti sensi, io comunque sono una grande teorica bene. Della materia. Bene. E questo dovrebbe aiutarti anche nella tua carriera da musicista rock con la bocca. Che strumento avresti scelto? Dunque, avrei scelto il flauto. Ah, oh, brava, originalissima. Maestro, la smetta, lei sembra di parte, maestro. Ma no, ma perché sembra, è romagnola, sembra di parte. Assolutamente. È sicuro? Io posso avere così delle leggere inflessioni di entusiasmo, ma niente di che. Cara Roberta, tra l'altro sei la prima a questo punto a presentarti come flautista. Molto coraggioso. Quindi potrebbe aiutarti, perché insomma, non hai concorrenza. Ecco, fantastico. Per questo fantastico. Ti può aiutare. Che brani avresti scelto? Dunque, avrei scelto abbastanza naturalmente Ian Anderson e Peter Gabriel, cioè Bourré dei Jethro Tull. Che brava! Ottima scelta! Eventualmente un passaggio di, attenzione alla pronuncia che sì. Per me è terribile, First of Fifth dei Genesis. Ah beh, come lo dici tu, noi non lo ridiremo più. No, quindi, io non m'azzardo nemmeno, comunque bravissima. Addirittura ottima scelta. Due pezzi vorrebbe fare, però io non so perché nel regolamento sembra che se ne debba fare soltanto uno, quindi sì. Probabilmente Roberta non potrà. Ma in questo caso direi che potrebbe farne due. No, il regolamento dice uno solo. Vieta due, vabbè, dice però in questo caso lei dice, gliene facciamo fare due. Che scemo. Purché sintetici, allora. Purché sintetici. Certo. Ma voi mi frenate, mi fermate. Guarda, allora, se sei pronta in diretta sulle frequenze di Rock FM, Roberta da Lugo di Romagna. Bravissima. Al flauto, musicista rock con la bocca. Vai Roberta! Vai Roberta! Roberta, il firulì firulà era veramente fenomenale. E ti ho sentita pronta anche in una terzina che ha fatto in maniera veramente precisa. Questa era la Bourré. Questa era classe. Volevi accennarne un'altra? Grazie mille. Grazie. Guardi, brevissimamente, vai. Appunto, Peter Gabriel. Mi raccomando, firulì firulà, se c'è, noi apprezziamo. Certo. Vai. Esattamente. Sì. Maestro, non faccia così. Maestro sta facendo finta di suonare un flauto traverso. Non la vedono, non la vedo. Roberta, grazie mille. Bravissima. Grazie a voi. Ma che dico, bravissima, braverrima. Veramente, lei è veramente di parte, maestro. Vorrei un attestato scritto e miniato possibilmente da degli amanuensi, De Fricantoni, perché è un onore per... per tutta l'eternità. Questa è un'ottima idea, e prima o poi idea. Roberta ce l'avrai. Le faremo sapere, come stiamo dicendo a tutti, dovessimo organizzare una band, tu ci sarai? Naturalmente. Perché ci manca il flauto. Un po' sì. Fantastico. Po' sì. Abbiamo ascoltato Roberta, la nostra prima flautista di traverso con la bocca. Grazie. Grazie Roberta. Grazie, complimenti. Ciao, grazie. Ciao. Bravissima, ciao. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remained inside their pen. Though many times they've seen the way. Rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy. To see reflected there the trees, the sky, the dilly there, the scene of death is lying just below. The man the town from you, like a cancer growth, is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, and inland sea is sea. Songs urge the sailors on till lured by the siren's cry. Thank you. sad pen. The sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were below by the river of constant change. Genesis. 9 minuti e 20 secondi di goduria, first of fifth, grazie all'amica di Lugo che ce l'ha interpretata al flauto. Vedo con piacere che ogni volta che programmiamo brani così lunghi per intero, apprezzate sempre. E vedo Fiore che commenta: ragazzi, mi complimento con voi però non aver fatto battute oscene, avevate una radioascoltatrice linguista romagnola che suonava il flauto e non avete fatto battute di bassa lega. Grazie Fiore, a volte ce la facciamo anche noi. È finita la puntata 139, la potrete riascoltare tra qualche minuto su RadioRockFM.com se vi siete persi qualcosa, oppure su myspace.com/paneburrofm. Siamo in rete, amici. Pane, burro e rock and roll. Un programma senza rete che va in rete, eh? La colazione rock. È andata anche per oggi. Pane, burro e rock and roll. Tra pochi istanti, Marco Garavelli. Fino al mezzodì. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene e fa bene la colazione che dà assuefazione. Buongiorno Marco. Buongiorno a te. Aspetta, da quanto non la usi questa acoustic? In che senso? La chitarra? Vabbè. No, spiega allora perché abbiamo portato la mia chitarrina da 100 euro. Acustica, quella che arriva dalla Germania. Oh, mi avete detto, porta sì, sì, quella sì. Che ha, io l'ho detto, la mia fa schifo, però... Quella. Perché oggi come ospite abbiamo, insieme a Mox, in Easy Rider, intorno alle 12.30, il cantante degli Yes, John Anderson, che da questa sera è in mini tour in Italia, espressamente ci ha chiesto se avete un'acustica, magari qualcosa posso a fare. A me hanno detto, che ha chiesto, posso avere la chitarra di Ariel? Ah, quella? È una palla che mi ha raccontato Mox o... È una doppia palla. Ah, ok, niente. Magari il problema della polvere è nel capotasti, quelli su in alto. Sì, perché... adesso glielo diciamo ad Ernesto, ci esatto. Pensa lui, guarda. No, gli spacca le corde se lo fa Ernesto. Lo so. Magari lo faccio io dopo. Okay. Però pensavo anche, perché l'ho vista, l'ho pensato, ho detto, guarda che la polvere la fa un po' vissuta. Esatto. Quindi magari apprezza, la lasciamo così. Apprezza di più, non okay. So, va bene. Io devo ricordare l'appuntamento di domani sera domani al sera, The Sad. Sì. Tra l'altro ci sarai anche tu pronto per i cori, Garavelli? Ma come, io sul palco? Anche per forza. Suona la Rock FM Star Band e tu non vieni? Sì, io vengo, ci cioè, sarò. Suona anche Mox Cristadoro, dico, vuoi non suonare anche ci tu? Ci sono, per quello sì. Cantare è un po' più dura. Per la presentazione... di Guitar Hero 3! Quella roba per suonare la chitarra roll. Finta. Esatto. Oh, bene, venite lì, ci siamo noi della banda di Rock FM e tantissimi altri. Non posso dire nulla del calendario di Pane, Burro e Rock and Roll. No. Non posso dire che stasera devo andare in piscina con Angelo il fotografo e Carlo il tabaccaio per fare la fotografia di Nevermind. Non posso dirlo, quindi non lo dico. Il giubbotto e il salvagente lo portate per Freak? Guarda, avrei una dozzina di aneddoti riguardanti Freak e la piscina che non posso raccontare. La maschera con le bombe. Non posso dire nulla, ho detto che non lo dico, non lo dico. Ok, va ciao. Bene, ciao.